Antenate, la visione delle donne. Capitolo 1. Il raduno. Il sacro fuoco ardeva già. Lei lo aveva acceso all'alba di Imbolc, al centro di un cerchio di pietre. Era una delle sue incombenze. Ora era il tramonto e Brigid controllò ancora una volta la catasta di ciocchi di legno accanto al fuoco e con una lunga rama di frassino spazzò di nuovo l'area circostante nella radura dei 5 alberi sacri: il frassino, il tasso, la quercia, il melo, il nocciolo. Poi, soddisfatta, sedette all'interno del cerchio con la schiena contro una delle pietre e chiuse gli occhi aspettando. Dopo un silenzio di indefinibile durata, cominciò a udire passi leggeri che avanzavano nella sua direzione. Il suo cuore prese a battere dalla gioia. Le sue sorelle d'anima arrivavano. Avrebbero portato ciascuna la sua storia e tutte insieme avrebbero raccontato intorno al sacro fuoco, cantando, mangiando la sacra zuppa e a volte danzando, quando gli spiriti guardiani lo avessero richiesto. Brigid sorrise, aprì gli occhi e le guardò venire verso di lei. Hildegard, alta, elegante, aristocratica, sapiente, Sabina, che attraverso il dolore aveva realizzato in sé l'unione, la gentile Marie, così profonda e buona che a volte si faticava a entrare nelle sue profondità, Gabriela con il suo petto aperto alle gioie e alle sofferenze dei viventi, e Maria dal passo deciso e dall'occhio attento. Vennero poi Mary, madre, che per prima scrisse dei diritti delle donne, con Mary, sua figlia, la cui opera fu dedicata a esprimere il suo orrore verso tutto ciò che non nasce dalla vita. Guglielma e Maifreda, sacerdotesse e papesse insieme in tutte le vite. Brigid, dalle trecce rosse e dal cuore gentile, si alzò e con piccoli passi di danza le accolse all'ingresso del cerchio, profumando l'aria intorno a ciascuna di loro con un bastoncino di legno sacro. Le sorelle si abbracciarono a lungo dopo aver posato i doni che portavano, poi, senza dire una parola, ognuna prese posto su una pietra. Ognuna di loro portava in tutte le sue vite la medicina delle 7 vie. Ognuna di loro era sacerdotessa, erbana, maga, guida, cuoca, tessitrice, poeta, madre, anziana e bambina. In una parola, sciamana. Brigid, in piedi di fronte al sacro fuoco, alzò le braccia e cominciò a invocare la benevolenza degli spiriti e della dea affinché le loro parole, azioni e intenti fossero trasparenti. Dall'est, porta di accesso ai mondi, all'ovest, porta di uscita, intonò. Io, Brigid, figlia di Bride, apro questa alleanza in cerchio con le mie sorelle. O Dea madre di tutte le creature viventi, sii benevola e accogli come preghiera i nostri suoni da ora fino a quando questo cerchio si riaprirà e noi torneremo nel mondo, ciascuna al suo compito, ciascuna alla sua prossima incarnazione. Brigid prese una ciotola di acqua di fonte che era appoggiata vicino al sacro fuoco e cominciò a spruzzare con le dita tutto intorno in senso orario e a segnare con l'acqua la fronte, le mani, il petto e il ventre di ognuna delle altre donne. Poi ne buttò un po' sulle fiamme che risposero con allegri sibili. Allora, una ad una, le altre sorelle si alzarono e deposero nel sacro fuoco piccole quantità dei doni che avevano portato: castagne con il riccio, un piccolo tessuto dai fili colorati come un tramonto estivo, dei pezzetti di fungo per viaggiare fuori dal corpo, una piccola pergamena, una manciata di sale e di zucchero, fiori ed erbe essiccate, una ciotola di latte e una di birra e un piccolo pane fragrante. Il fuoco rischiarava le prime ombre della sera nel profondo della foresta e gettava ombre danzanti sui tronchi degli alberi e sui volti delle antenate convenute in quel luogo. Così era giunto il momento dei racconti. Brigid si raccolse un momento, poi si alzò e prese la parola.